sta per me l'Africa, un gran bombardamento. Siamo in tre, dai tre in Tripoli, con nos bandiera al vento. Poi turchi mantra di, ma noi umasca sem. E adesso dalla trincea, adunti i grassi. Viva l'Italia e viva il re, viva il Savoia e il Sassuolo. Viva l'Italia e viva il re, viva il Savoia e il Sassuolo. Insieme al turbo è, come se il nostro bandiere. Tripoli, la perpovera, ad quel calera yeah. Oh bella mola d'Africa, stammi a guardare al cor me glò in Italia, mola a venire per te. Viva l'Italia e viva il re, viva il Savoia e il Sassuolo. Viva l'Italia e viva il re, viva il Savoia e il Sassuolo. E quando va giù a su, sto guardia insieme ai fuori. A guarda blada al me, e a gvoddi vece smo. L'amo in tua meca slota, me mer la mei dormi. La luna bella bianca, l'abbata in si cabi. Viva l'Italia e viva il re, viva il Savoia e il Sassuolo. Viva l'Italia